Giovedì 2 marzo del 2017, 87.9 la modulazione di frequenza, ci ascoltate qui e anche in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è ascolta la diretta. Stiamo con l'appuntamento del cinema, Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15 e spesso e volentieri anche prima, intorno all'una e mezza dopo il giornale radio delle 13. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della radio ondarossa.info, sempre sull'home page, colonna centrale, trasmissioni Visionari, pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info. Siamo in collegamento con Arianna Ninchi, curatrice della rassegna Un Vizio di Famiglia, a Roma, al Cinema Trevi, dal 7 al 12 marzo. Arianna, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, un saluto agli ascoltatori, grazie Federico per ospitarmi all'interno del tuo spazio. Raccontaci un po' come nasce questa nuova rassegna. Sì, allora l'idea è quella di riunire in un'unica rassegna una famiglia di attori che per varie vicissitudini non è mai stata unita. Quindi, oltre appunto alla volontà di omaggiare e ricordare il loro lavoro, c'è anche proprio questa finalità più nobile, per quanto mi riguarda, appunto, di riunirli per una volta tutti insieme appassionatamente. Senti, la scelta dei titoli come è stata? Sì, dunque abbiamo lavorato con Gianfranco Pannone, Luca Pallanc e Daniele Monetti della Cineteca Nazionale, che hanno realizzato assieme a me questa rassegna, mi hanno aiutato tantissimo. E appunto abbiamo film degli anni 30, da Scipione l'Africano con mio nonno fino all'Uomo che ama di Maria Sole Tognazzi, che è l'ultimo film in programmazione ed è del 2008 e lì ci recitava mio padre. E poi abbiamo film dove c'è Carlo Ninchi, dove c'è Ave Ninchi e anche Alessandro Ninchi, quindi cinque personaggi della storia del teatro e del cinema italiani messi insieme in una rassegna. Senti, com'è suddivisa per giornate ed orari la rassegna? Sì, allora inizia appunto martedì 7 con Scipione l'Africano alle ore 18 e Jarabub alle ore 20. Invece mercoledì 8 abbiamo alle 17 Vivere in Pace, alle 19 l'Onorevole Angelina, alle 20.45 Totò le Mocò. Giovedì 9 abbiamo alle 17 Emigrantes, alle 19 Parigi è sempre Parigi, alle 20.45 La Presidentessa. E venerdì 10 è la giornata, diciamo, clou, perché abbiamo alle 17 I Colpevoli, alle 18.30 La Dolce Vita e alle 21.30 c'è l'incontro moderato da Boris Sollazzo assieme a Gianfranco Pannone e a Pozzessere. E a seguire, dopo l'incontro, ci sarà la programmazione di un episodio di Coca Pop, che è uno degli ultimi lavori a cui ha preso parte mio padre con la regia di Pasquale Pozzessere. Invece sabato 11 alle 17 c'è Rimini, alle 19 Magnificat, alle 20.45 8 e mezzo e domenica, l'ultimo giorno, alle 17 abbiamo Il Trasformista, alle 18.45 Giorni e Nuvole e alle 21 L'Uomo che Ama. L'ingresso? Ingresso libero. Ingresso libero, perfetto. Sì, sono 16 proiezioni a ingresso libero. Benissimo. E mi faceva davvero piacere segnalarlo, insomma, chi potrà venire mi troverà ovviamente sempre là. Tanti film non li ho visti neppure io, quindi sarò assolutamente sempre presente. Senti, ci lasci tutti i riferimenti web per le informazioni? Sì, allora per le informazioni potete cercarmi su Facebook, Arianna Ninchi, lì insomma ho messo il programma e anche una bellissima foto che è l'unica che ritrae tutti e cinque assieme. E poi c'è il sito della Sala Cinema Trevi, che è il sito della Cineteca Nazionale, e proprio stamattina mi hanno inviato il programma definitivo dove c'è Ave in copertina. Sono molto felice per questo. Benissimo, allora un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, Arianna. Viva il lupo. Viva il lupo. Un saluto a tutti. Ciao Arianna, ciao. Arianna Ninchi, curatrice della rassegna Un Vizio di Famiglia al Cinema Trevi qui a Roma, ad ingresso gratuito dal 7 al 12 marzo. Stefano Testa, regista del documentario Moloch, che sarà programmato al Cinema Lumière di Bologna domani 3 marzo, venerdì 3 marzo. Stefano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, ciao a tutti, ti sento molto male, prima ti sentivo bene. Probabilmente a questo telefono dovrei usarne un altro. Mi senti ora? Adesso sì, okay. Grazie. Allora, ci racconti di questo Moloch per chi ci sta ascoltando, di cosa si parla? Dunque, Moloch è un documentario, è il mio primo lungometraggio, e è un montaggio di alternanze, contrasti tra alcune videocassette degli anni 80-90 che ho trovato per caso in una discarica nella provincia di Bergamo, dove vivo, e delle conversazioni con un personaggio apparente misterioso, ma che in realtà è mio zio, che racconta alcune esperienze di vita che contrastano con quello che viene invece descritto nelle videocassette, ovvero le videocassette mostrano scene di vita provinciale, quindi abitudini, convenzioni sociali, festiccioli, famiglia, viaggi organizzati. Racconta un po' la monotonia, no, della vita di provincia, mentre mio zio è un personaggio assolutamente fuori dagli schemi, un bergamasco anomalo che ha passato tutta la sua vita a cercare di allargare i propri orizzonti e fare nuove esperienze, e all'età di 60 anni si trova a porsi delle domande su quello che è stata la sua vita. Questo è un po' il riassunto del film. Senti, è nato tutto da quest'idea della conversazione con tuo zio o dal ritrovamento di queste videocassette? In realtà all'inizio non avevo in mente di fare un film. Le videocassette le ho trovate un po' di anni fa e le ho conservate, perché comunque sono appassionato un po', essendo degli anni 80, da piccolo mi piaceva registrare i film, un po' questo feticismo per le videocassette. Con mio zio ho iniziato a registrare conversazioni, ma così solo per memoria, per piacere personale. Poi l'idea di fare il film è nata successivamente e mi sono accorto che le tematiche che snocciolava Roberto, mio zio, si prestavano molto a un parallelismo con quello che erano le immagini contenute nelle videocassette. Ecco, a proposito di questa immagine, cosa hai scelto di questo materiale ampio? Ah, ho scelto principalmente delle scenette familiari molto intime che possono tutti possono condividere, come appunto cene in famiglia, il video del matrimonio degli anni 80, quindi molto, adesso lo definiremmo trash, negli anni 80 probabilmente era una cosa bellissima, quindi con queste musiche disco anni 80 riprese sopra le righe, che riviste a 30 anni di distanza sembrano ridicole. Materiale appunto intimo di famiglie che raramente si vede in un film, perché appunto appartengono alla sfera privata. Senti, dopo questo appuntamento a Bologna, che succederà del tuo lavoro? Beh, bella domanda. Spero che ci siano altri passaggi in altri festival. Sono ancora in attesa dei responsi. E poi con la Bottanta Film, che ricopre il ruolo sia di produzione che di distribuzione, penso che appunto architetteremo una distribuzione, vedremo poi più avanti come, anche in base a quello che sarà il riscontro del pubblico. Senti, tu sarai presente chiaramente alla proiezione? Sì. Okay. Sarò, sì. A che ora è prevista? È prevista alle 10:30, alle 22:30. Perfetto. Allora, i riferimenti web per saperne di più? Dunque, sito di La Bottanta Film. Ok. Nella sezione labottantafilm.it, nella sezione produzione, c'è la scheda del film, oppure anche sul mio sito personale, che è stefanopitesta.com, c'è una scheda del film consultabile. Benissimo. Stefano, un abbraccio, un in bocca al lupo, e a risentirci presto. Grazie molto. Ciao, a presto. Ciao. Ciao. Stefano Testa, regista del documentario Moloch, che sarà in programmazione al Cinema Lumière di Bologna domani, venerdì 3 marzo. Eccoci con Manuela Buono di Arc Film sulla distribuzione del documentario A Good American, in uscita in sala oggi giovedì 2 marzo. Manuela, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno, ciao. Allora, ti chiedo subito intanto di Arc Film, no, che non avevo mai avuto il piacere di contattare. Raccontaci un po' di questa esperienza. Infatti, impossibile, perché, scusa, come distribuzione siamo appena nati e quindi stiamo appunto uscendo adesso come Good American, ed è il primo film che distribuiamo in sala. Quindi è basata a Gorizia, siamo a Gorizia e distribuiamo diversi film e documentari d'autore, e siamo legati all'altra ditta, Slingshot Films, che si occupa invece di vendite internazionali, che cura più o meno questi titoli. E adesso vediamo come sarà questa avventura. Credo che gli spazi per distribuire questo tipo di cinema ci sia, e quindi vediamo. A Good American cosa racconta? A Good American racconta la storia di un genio matematico che per 40 anni ha lavorato per la CIA, per l'Agenzia di Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti, con fervore patriottico e con grande fiducia nelle istituzioni, finché è stato completamente schiacciato da queste. Quindi è la storia di una grande delusione, delusione che si è verificata poche settimane prima dell'11 settembre, quando i vertici dell'agenzia hanno deciso di licenziarlo e di fare a meno dei suoi servizi troppo economici per poter soddisfare i palati di tutti. Quindi una storia abbastanza scioccante, una storia che fa incazzare davvero, e una storia che avrebbe potuto cambiare il corso del nostro secolo. Senti, come lo avete incontrato questo lavoro? Allora, questo lavoro, io in particolare ho incontrato il regista prima ancora che lo andasse a girare, me l'ha raccontato, non ho capito tutte le conseguenze e tutti i dettagli della storia, ma ho capito che si trattava di una storia spaventosamente importante, e quindi abbiamo deciso di lavorare insieme. Quando poi il film è finito, il regista è tornato e mi ha detto, il regista Friedrich Moser è austriaco e di Vienna, mi ha chiamato e mi ha detto: Manuela, il film è pronto, quando iniziamo? E abbiamo iniziato a lavorare insieme. Conoscevo già Friedrich Moser per il suo precedente film Brussels Business, che è un film che è stato anche distribuito in Italia, sulle lobby che hanno il potere sull'Unione Europea. E conoscevo il suo stile, conoscevo il suo modo di lavorare, conoscevo la sua passione civile, e quindi abbiamo deciso di lavorare insieme su questo film. Senti, due cose mi hanno impressionato di questa vicenda in particolare. Allora, una è rispetto alla gestione del potere. Una potenza come gli Stati Uniti aveva ed ha tutti gli strumenti per prevenire ogni crimine. Il fatto che invece si mantenga uno stato di tensione, di paura costante, con alcuni attentati che poi in effetti vengono commessi, certo, implica il fatto che comunque la cittadinanza, in preda alla paura, deleghi tutto la sicurezza, e quindi anche la gestione, per esempio, della propria privacy, come succede per il web, al potere, a chi detiene il potere. Esatto, e proprio questo è uno dei punti fondamentali del film. Come ha detto, come ha spiegato Bilbini, che è stato in Italia fino a pochi giorni fa, e come poi ha ribadito Friedrich Moser, la domanda è: quando la sorveglianza, l'intelligence, che ha il compito di prevenire i crimini, si è trasformata in polizia. Quindi la polizia dovrebbe intervenire a crimine avvenuto, l'intelligence dovrebbe prevederli. E invece l'intelligence fallisce nelle sue previsioni, perché guardando il film si capisce che dietro c'è un caos totale, non hanno la minima idea di dove andare a pescare i sospetti, e quindi poi agisce a posteriori, ma a posteriori diventa stato di polizia di fatto, e conviene perché per motivi prettamente economici, che sono quelli di questa angolazione inedita che ha raccontato il film, è proprio la corruzione, il denaro che serve a mantenere questo baraccone che sono i contractors che si occupano di sorveglianza, e i motivi che dici tu, perché conviene avere una cittadinanza appunto impaurita. Ma fra l'altro l'intelligence storicamente ha sempre avuto il compito di spiare il nemico, fino a poco prima dell'11 settembre. Dall'11 settembre in poi l'intelligence spia i suoi stessi cittadini, quindi siamo tutti osservati, catalogati, sanno tutto, ci ascoltano e un giorno faranno uso di questi dati. Quindi molto spesso sento persone dire non faccio nulla di male, quindi mi possono spiare. Ma quello che fai adesso non è male adesso, potrebbe esserci un cambio di legge e sarà male, loro i dati intanto ce li hanno. Quindi è molto preoccupante. Eh sì. E infatti l'altro elemento scioccante, ma che insomma si sa per chi sa leggere dietro gli eventi, in parte lo hai già accennato tu in questa risposta, è la privatizzazione attraverso varie forme di quella che dovrebbe essere la sicurezza nazionale, nel senso che con l'arrivo del nuovo capo della CIA, che è un ex militare, la gestione di alcune operazioni di sicurezza vengono delegate ad una neonata società che è formata da quasi tutti i membri, ex membri della CIA, che però è un ente privato e quindi comunque gestisce a che fare con la sicurezza nazionale. E qui entriamo nel discorso del circuito di soldi e di interessi. Certo, che è applicabile anche a molti altri settori, come sappiamo bene in Italia. Il caos, la ricostruzione e quindi la distruzione che precede la ricostruzione portano soldi e quindi fanno felici molte persone. Sì. Una delle cape della CIA in un frammento del documentario commentò davanti ai suoi sottoposti l'11 settembre come una manna piovuta dal cielo per maggiori finanziamenti proprio della CIA. Esatto. Sì, ricorda molto bene anche alcune situazioni italiane, in effetti. Sì. Però sì. Purtroppo dove c'è una catastrofe, c'è un'evidente necessità di ricostruzione, lì arrivano dei soldi. Quindi Dilbini era stato licenziato per questi motivi principalmente, perché il suo programma era talmente economico che avrebbe fatto felici troppe poche persone. E anche talmente efficiente, perché comunque avrebbe previsto tranquillamente l'11 settembre. E non avrebbe dovuto spiare tutta la popolazione mondiale, aveva dei filtri per cui venivano segnalati dei sospetti, e dopodiché le azioni sospette venivano controllate, neanche le persone, le azioni sospette venivano controllate. Sì. Invece adesso siamo qui a dare i nostri dati a chiunque. Senti Manuela, ci è sembrato un film necessario in questo momento, anzi diventa ogni giorno più pressante raccontare questa storia, perché la sorveglianza e il legame con il possibile terrorismo diventano sempre più forti e sempre più importanti per noi cittadini. Manuela, che modalità avete scelto per la distribuzione? Ma adesso abbiamo iniziato con una serie di anteprime, la settimana scorsa appunto il 27 eravamo a Roma con Dilbini e Friedrich Moser, abbiamo fatto una conferenza stampa che è stata molto infuocata, molto interessante, abbiamo ascoltato altri aspetti anche non presenti nel film, siamo stati anche a Firenze al Cinema della Compagnia e da oggi usciamo in diverse sale. Questa sera per esempio siamo al Beltrade a Milano e ci sarà il regista in collegamento Skype con la sala. La scelta è di uscire in poche città alla volta, in modo da poter curare ogni singolo spettacolo, e nell'arco dei prossimi due mesi saremo in tutte le principali città italiane, da subito a Pisa, a Bologna, a Trieste, a Milano, a Firenze, a Lucca, non ricordo, ieri era Ancona, eccetera eccetera. Quindi speriamo appunto di non riuscire in poche sale per volta, in modo da dare una continuità al film. E i nostri eroi anche torneranno in Italia per eventuali incontri e approfondimenti. Senti, ci lasci riferimenti web per saperne di più? Certo, archfilm.it è il nostro sito web, e poi ci trovate su Facebook, su A Good American Italia, dove sono segnalati tutti gli eventi, tutte le proiezioni. Benissimo. E tutti gli articoli che stanno uscendo. Quindi vi aspettiamo al cinema. E ci risentiamo presto, allora, per le prossime novità. Presto, certo. Ciao Manuela, grazie, a presto. Mille, buona giornata. Ciao, ciao anche a te, ciao. Manuela Buono di Arch Film sulla distribuzione del documentario A Good American, in uscita in sala oggi giovedì 2 marzo. Con Silvia Biagioni, regista del documentario Nulla di essenziale avviene in assenza di rumore. Silvia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao. Tutto bene? Grazie. Come va? Sì, tutto bene? Sì, ok. Sì, tutto a posto, grazie. Di passaggio in Italia. Esatto, sì, sono arrivata ieri. Ok. Senti, racconta un po' a chi ci ascolta cos'è Nulla di essenziale. Ma Nulla di essenziale è un film su Praxis, che è un'etichetta inglese che poi ora si è trasferita a Berlino, che si occupa di breakcore. E io sono un po' un'appassionata di... fui quando ero più giovane un'appassionata di rave e un po' di quella scena, e quindi ho deciso un po' di farci un film. Ok. Senti, da dove sei partita e come l'hai sviluppato? Da dove sono partita? E io cercavo un'etichetta o comunque qualcuno che rappresentasse il lato un po' più politico del movimento. Sì. E quindi mi sono avvicinata alla Praxis, che in effetti è un'etichetta molto di nicchia e che porta avanti un discorso un po' più ampio rispetto alla sola musica, e quindi si occupa, esatto, anche di politica, di teoria. E come hai costruito il lavoro? E il lavoro è stato anche un po' casuale, a dire il vero. Io volevo fare un film che non fosse, che fosse più che altro un manifesto, e che quindi rappresentasse quello che l'etichetta stessa e che le persone del collettivo vogliono dire. Quindi un po' nello stile riprendesse il loro modo di fare musica. Senti, questo titolo? Questo titolo è uno slogan, una frase che usa Praxis, e che è presa da, ora non me lo ricordo sinceramente, un teorico francese del rumore che in questo momento mi sta sfuggendo. Ok. Senti, l'hai costruito Attali, ok, dovrebbe okay. essere Attali, ma non sono sicura. Senti, l'hai costruito con interviste, anche seguendo i tuoi personaggi? Sì, l'ho seguito con interviste. Io, diciamo, sono andata un paio di volte a Berlino, perché ora loro si sono trasferiti lì da una decina, 15 anni, e sono rimasta lì con loro per diverso tempo. Li ho seguiti, ho vissuto un po' con loro, abbiamo fatto feste. E anche il materiale l'ho trovato a Berlino, la telecamera con cui l'ho girata me la sono fatta prestare là, perché volevo qualcosa molto a bassa definizione. Quindi è girato un po' in HD, un po' in VHS. Ok. Senti, qual è la loro politica musicalmente parlando, e non solo? La loro politica, beh, loro vengono un po' dalla scena degli squat, che non è esattamente la scena rave. Sì. E quindi sono tendenzialmente degli attivisti legati un po' alla scena dei primi anni 90 inglese, la scena degli squat. Sì. E quindi vengono un po' fuori da lì. È una specie di resistenza che si basa sulla assenza dalla scena, assenza assenza dalla scena culturale, diciamo, quindi loro non sono, non si facevano pubblicità, non volevano essere visti, non volevano essere assimilati dall'industria culturale. Okay. Volevano rimanere sempre comunque invisibili in un certo senso, e questa era per loro una forma di resistenza. Questo è stato probabilmente sia un pro che un contro sul lungo periodo, perché infatti mi chiedevo poi se ci sono occasioni in cui in qualche modo fanno socialità o hanno dei momenti di aggregazione. Sì, quei momenti sono tendenzialmente le feste. Ok. I party, ora ce ne suonano a Milano questo fine settimana, volendo. Senti, ecco, in questo senso ti volevo chiedere, visto che vieni da quell'esperienza, i rave come si sono modificati nel tempo? Io non lo so, perché c'è una scena che ho frequentato, però che ho anche un po' smesso di frequentare. Okay. Molto presto, è stato breve e intenso, diciamo. Quindi non saprei dire. Ci sono tante persone che ne parlano in diversi modi e sicuramente sono tutte più preparate di me a farlo. Okay. Io ho un'esperienza molto soggettiva, è stata abbastanza forte come impatto sulla mia vita, e trovo che ci fosse un'energia di fondo molto bella, però al di là di quello non so andare nella critica su cos'è stato, cos'è diventato. E invece i party organizzati da questa etichetta sono piuttosto diversi dal rave per come si concepiva? Sì, sono squat party, sono, diciamo, più vicini, forse non vorrei dire, ai centri sociali in Italia, però alle cosiddette TAZ. Sì, okay. Sì, sono queste. Non sono tendenzialmente parti illegali, di solito sono organizzati in posti occupati, e recentemente sono stata a questo sullo Stubnitz, che è il primo party che ho visto di Praxis, era molto bello, era su questa nave da guerra ormai in disuso, insomma. A Londra. Okay. E niente, sì, loro fanno parte soprattutto in posti occupati, diciamo, squat o in centri sociali in Italia. Mm-hmm. Okay. Non rave veri e propri, ecco. Okay. Senti Silvia, il tuo documentario sarà visibile pubblicamente prossimamente? Sì, dovrei faccio un po' fatica a trovare le parole in italiano. Lo sto pubblicando, si dice? Ah, lo stai pubblicando, ok. Lo sto pubblicando su un sito tedesco, quindi dovrebbe essere visibile. Il prossimo mese dovrebbe essere disponibile, sì. Ok. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, sul mio sito www.silvia.it. Ci sono tutte le informazioni. Silvia con la B? Sì, okay, Silvia.it. Perfetto. Allora Silvia, io ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci per le prossime novità. Va bene, dai, grazie mille. Ciao, ciao. A presto, ciao. Silvia Biagioni, regista del documentario Nulla di essenziale avviene in assenza di rumore. Allora, abbiamo in collegamento Valerio De Paolis di Cinema Distribuzione sul film. Vi presento Tony Erdmann, al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto di scena, in uscita in sala oggi giovedì 2 marzo. Valerio, ben ritrovato. Grazie, che gioia di sentirvi, come state? bene, sono contento di questo film perché è veramente spiazzante e un piacere da vedere. Allora, raccontalo un po' a chi ci ascolta. Dunque, vabbè, non è il solito film, è un film un po', appunto come dici tu, spiazzante, perché apparentemente sembra una storia abbastanza semplice, il rapporto tra un padre abbastanza grande, diciamo di una forse 65 anni, e di una figlia diciamo di 35 che è completamente inserita nel suo mondo di lavoro. È una donna che ha successo, che lavora in Romania con delle grandi aziende di costruzione, però ha successo ma non è contenta, e al padre un giorno muore il cane, che è l'unica, l'unica relazione che lui ha, e parte alla ricerca della figlia per stare un po' con lei, e poi la vede e vede che la figlia è molto infelice, e allora lui cerca di fare del tutto per far sì che la figlia abbandoni questa tetraggine che ha, completamente travolta dal lavoro, e faccia in modo di divertirsi. E quindi il film prende la piega di una commedia divertente con delle situazioni inattese fino a un epilogo, che però non voglio dire, se no poi non certo. Vanno al cinema, non è. Senti Valerio, senti, di questa regista cosa sappiamo? Dunque, di questa regista sappiamo che ha 42 anni, che ha un marito regista, che ha appena avuto due bambini, che ha già fatto due film precedentemente, uno dei quali aveva vinto a Berlino un Orso d'Argento, che ha lavorato 7 anni su questa sceneggiatura, che si è ispirata un po' al suo vero padre e a un attore della televisione americana che si chiama Andy Kaufman. È una donna, mi pare, molto intelligente e molto serena, e questo è per quello che io l'ho conosciuta quando è venuta in Italia. E, beh, insomma, prima di questo film aveva fatto un film carino, ma che non lasciava presagire un exploit di questo genere, quindi adesso vediamo, aspetto con gioia di vedere cosa farà dopo. Senti, cosa ti ha impressionato di più in questa pellicola? Allora, di questa pellicola mi ha impressionato molto positivamente tutte le risate che facevano a Cannes durante la proiezione. Cioè, io raramente, in ormai 40 anni che faccio questo mestiere, ho assistito a una proiezione che finiva negli applausi, nel divertimento, nelle risate, nell'allegria, nella gioia, e quella è la cosa che mi ha impressionato di più. Perché non è facile, è una cosa che succede quasi mai, e quindi quello mi ha impressionato. Senti, allora, sulla distribuzione, in quante copie, come avete pensato di farlo 75 uscire? 65 copie. Ok, quindi nelle città capozona? Ma sì, beh certo, nelle città capozona, ma anche in buona parte della provincia. Ok. Perché voi non so se sapete che ormai le sale cinematografiche sono in grande diminuzione, ci sono delle città anche importanti che non proiettano, non programmano questi film, quindi purtroppo è una cosa in via di estinzione. Anzi, andate a vedere questo film, perché chissà se quest'altro anno ce ne saranno molti altri. Allora, ricordiamo. No, un po' esagerato. Valerio, io ti ringrazio, ci sentiamo per le prossime. Bene, grazie infinite di questa telefonata che mi fa sempre allegria. Buona giornata a voi. A presto, ciao. Arrivederci. Ciao. Valerio De Paulis di Cinema Distribuzione sul film Vi presento Tony Erdmann, in uscita in sala oggi giovedì 2 marzo. Alberto Valtellina di Lab 80 sulla distribuzione del film Passeri in uscita in sala oggi giovedì 2 marzo. Ben ritrovato Alberto. Buona giornata Federico, buona giornata a tutti. Passeri, allora, intanto spieghiamo, raccontiamo un po' per sommi capi questa storia. È una storia apparentemente semplice, anzi lo è a tutti gli effetti, ma è semplice come la vita di tutti i giorni. In realtà la storia di un sedicenne, Ari, che vive con la madre, perché il padre è rimasto in un piccolo villaggio nel nord dell'isola, stiamo parlando dell'Islanda. La madre parte per l'Uganda, e Ari è costretto, anche benché non ne abbia nessuna intenzione, nessuna voglia, è costretto a ricongiungersi con il padre e la nonna nel piccolo villaggio, e da lì Ari ritrova una vita che aveva abbandonato. I primi anni della sua vita li aveva passati nel piccolo villaggio, aveva conosciuto Lara, poi era andato a Reykjavik, dove aveva vissuto un altro tipo di vita naturalmente, e lì parte la sua, il suo diventare grande. Il ritorno in questo villaggio costringe Ari a fronteggiare la vita da adulto. Avrà una serie di prove, però vabbè, bisogna sempre stare attenti a quello che si racconta del film, certo. Perché c'è sempre il rischio di rovinarlo. È un film giocato sulle gradazioni, è un film giocato sugli sguardi, è un film non capisci bene dove sta andando a parare. Io la prima volta che l'ho visto ho cominciato a inquietarmi praticamente all'inizio. In realtà è un film giocato, se bisogna trovare una parola che lo definisce, è la ricerca della bellezza. Ok. Senti, rispetto alla regia, che cosa sappiamo? Ma sappiamo che il regista è un quarantenne islandese alla sua seconda prova. Aveva lavorato un film che si chiama Volcano, che aveva girato per festival. Anche questo film, Passeri, ha una storia di festival piuttosto significativa. È stato presentato a Toronto e poi ha vinto parecchi festival. Quello che cerchiamo di fare noi, come Lab 80 Film, è portare al pubblico film da festival, diciamo così, che detto nel migliore dei, con il migliore dei, delle intenzioni, insomma, cerchiamo di fare in modo di far arrivare al pubblico film che altrimenti difficilmente ne verrebbe. Insomma, questo è un piccolo film, è un film islandese, di fatto era candidato per l'Islanda agli Oscar, però è un film che vale la pena vedere. Ecco, sempre per chi ci ascolta, secondo te quali sono gli elementi più significativi di questo lavoro? Ma i personaggi e gli spazi. L'Islanda è raccontata da un islandese in una maniera per nulla turistica. Vediamo un'Islanda che è anche lontana da un'idea appunto turistica, è un entrare nel mondo reale della vita degli islandesi, con le difficoltà del caso, con i modi di sviluppare una vita anche in un piccolo villaggio vicino al mare. Senti, che tipo di uscita sarà? Bella. Cioè, come l'avete, quante sale, come vi siete quante organizzati? Sale. Allora, Valerio De Paoli esce in 65, noi usciamo in un'ottantina. No. I nostri film cerchiamo di farli vivere il più possibile. Abbiamo titoli che girano ancora dopo un anno e mezzo. Cerchiamo di fare in modo, scegliamo i titoli perché possono vivere a lungo, insomma. Un nostro film può vivere anche un anno senza nessun problema, e insomma hanno tutti la certificazione di sé. Sono tutti film che comunque partono dal presupposto che devono avere un'elevata qualità, e poi cerchiamo di farli vivere il più possibile. Come uscita non ti so dire in quante sale sta uscendo adesso, perché non gestisco direttamente la parte commerciale. Anche se avete creato tutta una vostra rete rispetto... Sì, no, io sono molto ottimista. Io vedo crescere anche la nostra presenza sul territorio. Vedo che ci sono esercenti attenti che aprono nuove sale, quindi chi ha, secondo me, è l'esercente che determina il ritorno anche economico della sua sala, fidelizzando il pubblico, scegliendo con attenzione i titoli, osando, perché oggi è l'esercente quello che dà al suo pubblico la certezza della qualità della proposta. L'esercente che è solo commerciante oggi soffre. Alberto, ci lasci i riferimenti di Lab 80 per saperne di più? Sì, il sito è www.lab80.it, nella sezione di distribuzione c'è la scheda del film insieme agli altri. Benissimo, un abbraccio. Bene. Al prossimo. Un saluto. Ciao, ciao. Allora, un saluto a tutti. Alberto Valtellina di Lab 80 sulla distribuzione del film Passeri, in uscita in sala oggi giovedì 2 marzo. In collegamento con Lucio Basadonne, regista del documentario Figli della Libertà, l'altra faccia dell'apprendimento, che sarà a Milano al Cinema Spazio Oberdan dal 6 all'11 marzo. Lucio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie mille, eccomi. Eccoci. Allora, già dal titolo un lavoro che mi interessa molto, raccontacelo un po'. Allora, un documentario di viaggio, diciamo, che racconta... Scusami, ho appena fatto le scale. Con calma. Esatto, grazie. Che racconta la nostra vita di famiglia con la nostra bimba che non va a scuola, per capire se dopo questa scelta, secondo alcuni magari un po' avventata, sia buona o meno. Quindi il film raccoglie tre strade. La prima strada più autobiografica, che racconta che cosa succede all'interno di questa scuola libertaria dove i bimbi crescono insieme, con un tipo di apprendimento completamente diverso. La seconda strada è quella di una ricerca attraverso pedagogisti, esperti, pediatri, eccetera, per capire che cosa invece dice il mondo, diciamo, cosa dicono i sapienti. E la terza invece è un viaggio attraverso altre scuole o altre persone che non sono andate a scuola per vedere che cosa hanno combinato nella vita. Senti Lucio, questa scelta è cittadina e quanti bambini coinvolge? Allora, noi nel nostro progetto, nella nostra comunità educante, come ci piace chiamarla, sono 12 bambini tra i 3 e i 12 anni che crescono insieme. Non è che non ci sono regole, perché uno pensa scuola libertaria, nessuna regola. No, le regole sono fatte dai bambini stessi e dagli educatori, con la differenza che gli adulti non è che, visto che sono adulti, valgono di più, ma ognuno vale uno, quindi le decisioni vengono prese all'unanimità. Quindi un bimbo di 3 anni può dire no, non mi va bene questa cosa e bloccare una decisione. E quindi la maggior parte del tempo che si passa è quello a prendere decisioni insieme, a crescere insieme e a scoprire chi si è. Quanti sono gli adulti in rapporto ai bambini? E gli adulti nel nostro progetto, io ti parlo quindi diciamo del plot principale, sono 4 che si alternano, okay. Due alla volta per 12 però bambini. Però spesso ci sono anche genitori, laboratori, perché si viene a, ad esempio ci sono delle proposte, no, che i ragazzi fanno e si cercano modi per renderle possibili, per spiegare perché non sono possibili. Se uno vuole giocare a palla tutto il giorno può farlo, perché a 7 anni forse, tra virgolette, tra parentesi, è giusto che lo faccia. E il film esplora questo, esplora quanto un bambino può essere libero, che cosa vuol dire essere liberi, ma crescendo in questo modo così particolare, cosa succede quando c'è l'impatto con il mondo esterno? Esatto. Queste sono un po' di domande. Senti Lucio, in spazi esterni e interni? Prego, scusa? In spazi esterni e spazi interni avvengono queste dinamiche? Sì. Molti posti in cui siamo stati sono votati all'esterno, perché okay. Diciamo molti di voi magari conoscono l'asilo nel bosco, per dire. E quindi luoghi in cui il bambino ha il diritto al rischio, una cosa che normalmente fa drizzare i capelli, no? Quindi bambini che si arrampicano sugli alberi, che fanno di tutto, perché principalmente si crede nel bambino, no? Quindi io credo che se tu in questo momento hai bisogno di giocare, e puoi farlo. Poi succede ovviamente l'impatto con quello che nel film è l'esame, no? Quindi piano piano c'è questo esame che si avvicina e con cui i bimbi devono fare i conti. Senti, c'è da parte loro una curiosità verso lo studio, che solitamente è la parte che a scuola si vuole evitare. Ma la cosa fantastica è che ora io faccio un po' le cose positive nel film. Il film non è un'esaltazione di una tesi, anzi l'ho messa in discussione, sì, però sì. Quello che ti posso dire dalla mia esperienza è che lo studio ti viene voglia di imparare una cosa e quindi lo fai di tua spontanea volontà. Quindi forse noi abbiamo questa credenza, ghettizzando un po' i bambini come creature inferiori, di pensare che se non vai a scuola tu resti lì e giochi con la PlayStation, giochi a palla e non imparerai mai nulla. In realtà il desiderio di apprendere piano piano arriva, se si rispettano i tempi della persona. C'è un'intervista nel documentario di questo uomo che dice: io fino a 10 anni non ho giocato, poi improvvisamente mi è venuto voglia di scrivere e leggere, e lui è un cuoco, è sposato, per dirsi, quindi è una persona tra virgolette normale. Però che cosa succede se non prendiamo questi bambini e li mettiamo subito nel sistema fabbrica, no? Questo prova a raccontare il film, che non è solo, se mi permetto, a Milano, ma il 7 marzo è in tutta Italia, ci sono 40 proiezioni, in ogni città c'è qualcuno, un esperto di pedagogia, homeschooler, chiunque, scelte nostre molto, molto ponderate, che presentano il film e fanno dibattito con il pubblico. Mm-hmm. E oltre che a Milano resta anche a Roma, al Detour, l'11 e il 17, con altre due proiezioni speciali. Senti, Lucio, questo sistema copre tutta la settimana e quante ore al giorno? Allora, io ti parlo della nostra esperienza, sì, poi sì. Sotto l'ombrello di educazione parentale ci sono gli unschooler, quindi chi non va a scuola e non segue programmi, all'educazione libertaria, che è il nostro, che appunto che si basa sul cerchio. Insomma, sotto l'ombrello homeschooling ci sono molte cose che il documentario accenna. Nel nostro caso i bimbi, cioè uno, entrano fra le 9 e le 10 e mezza, fanno il cerchio, fanno le decisioni del giorno, poi poi hanno strutturato un calendario che cambiano di volta in volta, fino alle 4 del pomeriggio più o meno, quindi okay. Però non esiste un programma, come quando uno chiede ma qual è la giornata tipica di un homeschooler, perdonami, non c'è una giornata tipica, perché un po' scherzando si dice si impara quello che ci dice la vita, quindi è veramente molto diverso, io me ne sono reso conto incontrandone molti per questo documentario. Mm-hmm. L'impostazione che dai alla vita, il punto di vista che hai sugli adulti, il punto di vista che hai sul tuo tempo. In un'altra intervista un homeschooler mi dice: durante il periodo di homeschooling io ho imparato che il mio tempo era veramente mio. Secondo me è fighissimo per un bambino, no? Sapere che il tuo tempo è tuo. Mm-hmm. E che puoi gestirtelo senza qualcuno che ti dice come farlo, e se non lo fai ti dà punizioni o castighi. Mm-hmm. Senti, o Lucio, se lo fai bene. Sì, sì, sì. Lucio, le esperienze altrove cosa ti dicono? Altrove, ma penso che una parte molto interessante del documentario è a Summerhill, che è in Inghilterra, che è la prima e più antica scuola democratica del mondo, direi, dove oltre che vedere che cosa succede, come si relazionano con me dei bimbi di 11-12 anni che intervisto, sono andato a cercare in giro per l'Inghilterra persone dai 30 ai 60 usciti da quella scuola per chiedergli come si trovano nella vita reale, no? Ed è parecchio interessante, perché queste idee che ho esposto sinora, che possono sembrare strambe, producono a volte persone felici, a volte persone infelici, esattamente come un sistema di istruzione normale. Quello che vogliamo fare noi con questo lavoro è dire: esiste un'altra possibilità, cioè non è che la scuola non è un obbligo, è l'istruzione ad essere obbligatoria. E quello che penso io, se un bambino non sta bene in un posto, perché bisogna soffrire, perché nella vita bisogna soffrire, no? Si dice questo: stai male, però è così, ho sofferto anche, soffri anche tu. Metto in discussione questo principio, un pochettino questo dogma, no? Sì, sì, sì, sì. Mostrando un po' anche delle situazioni molto estreme, proprio per uscire da un luogo comune, che è quella dell'istruzione, che è quella dell'idea del bambino, delle potenzialità del bambino, eccetera. Senti, hai sentito, per quanto riguarda gli esperti, anche gli esperti pro, esperti contro, e cosa dicono? Esperti pro, esperti contro, sì, questo è direi che una cosa che abbiamo cercato di fare. Ad esempio c'è Paolo Sarti, che è un grandissimo pediatra toscano, che io l'ho contattato proprio perché era contro, ho letto degli articoli suoi contro, e quindi gli ho detto: guarda, ti voglio nel nostro lavoro. E cosa dicono? Dovete venire a vederlo al cinema, perché credo che il film, spero che il film alterni bastone e carota, no? Quindi che figata fare così, e poi bam, una persona si dice il contrario o vedi il contrario, no? Sì, sì, sì. Perché non esiste una soluzione, come certo. Non posso dire che l'homeschooling è figo o che la scuola è brutta, però come ti dicevo prima, sappiate che c'è dell'altro in giro, no? Che certe cose che noi diamo per scontate, devi andare a scuola perché vengono i carabinieri, oppure impara, fai i compiti perché altrimenti verrai sgridato, possono non esistere, no? Mi viene in mente una scena del film dove ci sono le, ci sono i cartelloni dove ci sono le proposte dei bambini, ci sono proposte sì, proposte, proposte forse, delle proposte, proposte no, c'è scritto compiti, no? Quindi i bambini hanno votato che i compiti non gli interessavano. Interessante che quando hanno fatto questa votazione un bambino non sapeva cos'erano i compiti, ha detto, ah sì dai, proviamo. E quando gli ha spiegato cos'erano, hanno detto, no, grazie. Senti Lucio, ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Sì, se andate su www.storielibere, che non è il titolo del film, il titolo del film è Figli della Libertà, però se cercate Figli della Libertà su Facebook lo trovate comunque, se no storielibere.it trovate i trailer, trovate tutte le proiezioni, fra l'altro Genova è sold out, Milano è quasi sold out, Roma ci sono io a presentarlo con Silvana Agosti, è quasi sold out. Cercate dei posticini e infilatevi perché sarà una bella serata. bene, allora Lucio io ti abbraccio, ci risentiamo presto. Ciao, a presto. Alla prossima, grazie. Ciao. Lucio Basadonne, regista del documentario Figli della Libertà, l'altra faccia dell'apprendimento, che sarà a Milano al Cinema Spazio Oberdan dal 6 all'11 marzo, ma poi anche in giro per l'Italia, compresa Roma. Gabriele D'Andrea di Lucky Red sulla distribuzione del film Moonlight, uscito in sala lo scorso 16 febbraio, vincitore dell'Oscar come miglior film e che da questi giorni, insomma dopo il ricevimento dell'Oscar, sicuramente avrà un nuovo impulso. Gabriele, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie mille dell'invito e della telefonata, mi fa molto piacere intervenire in questa trasmissione. Allora, Moonlight, per chi ci sta ascoltando e non lo conoscesse, come lo descriveresti? Ma Moonlight è innanzitutto un grandissimo film, quindi partiamo da questo punto di partenza che penso sia fondamentale. Sì. Un grande film, un piccolo grande film, cioè un film prodotto con poco budget, e prodotto da Brad Pitt, dalla società di Brad Pitt, quindi un attore sempre molto attento ad artisti emergenti, e un film che è diventato un vero e proprio caso perché nasce con pochissime ambizioni commerciali ma con un grande regista, e inizia il suo percorso al Festival di Telluride e poi al Festival di Toronto, esce in America e piano piano comincia a scrivere un po' la storia del box office americano di quest'anno, perché il film parte con pochissime copie e comincia ad avere una media per copia enorme, e da lì diventa un vero e proprio successo, arriva ad incassare ben 10 milioni di dollari prima dell'uscita, prima degli Oscar, e questo comincia a consacrarne il successo in giro per il mondo. Insomma, un grandissimo film girato nei sobborghi americani di Miami, insomma una storia di identità, una storia di infanzia difficile, qualcuno l'ha paragonato a Pasolini, insomma un grande film. Senti, ecco, si parla di comunità marginali, si parla di omosessualità, questi già sono due interessanti punti di vista rispetto appunto a una grossa città. Assolutamente, sì, due temi diciamo attuali, contemporanei e umani, che non hanno quartiere, sì, sebbene poi sì. si svolgano all'interno di un sobborgo americano, ma sono applicabili a qualsiasi realtà umana. E io più che sessualità, più che omosessualità, parlerei che è un film sulla ricerca della propria identità, che penso sia veramente la grandezza del film. E sulla scoperta della propria identità, ecco, sulle domande più intime rispetto al proprio essere in se stessi, rispetto al contesto, rispetto ai propri familiari, rispetto alle proprie amicizie, insomma un film sulla ricerca dell'identità. Senti, che impressione ti ha fatto vedendolo? Ma guarda, io l'ho visto all'American Film Market di Los Angeles a novembre, quando il film era ancora libero e veniva da questo successo di Toronto. Sì. Da un'accoglienza però in parte, cioè qualcuno subito ha gridato al capolavoro, altri sono stati molto tiepidi, tant'è vero che noi lo comprammo dopo la sua partecipazione al Festival di Roma. Infatti il film fu selezionato da Monda con grande lungimiranza come film di apertura della kermesse romana, e in quell'occasione molti critici del web lo accolsero con grande freddezza, perché non è un film immediato e non è un film scontato, è un film... Sì. Con cui bisogna allacciare un contatto e che va trattato con molta molta attenzione. Probabilmente in quell'occasione il film fu accolto con un pochino di superficialità e senza la dovuta attenzione. E noi lo vedemmo poi appunto all'American Film Market circa 2-3 settimane dopo l'apertura del Festival di Roma, e rimanemmo veramente colpiti dall'umanità straordinaria di questa storia e da una regia veramente importante, nuova, imponente, talentuosa di Barry Jenkins. Senti, regista Barry Jenkins. Vedendo un servizio televisivo sull'attribuzione dell'Oscar, si faceva notare, non che questo c'entri molto, però comunque è un dato di fatto che è il primo Oscar ad un islamico. Sì, l'attore non protagonista, che è un attore straordinario, che poi ha fatto anche un film che uscirà tra poco, che è Loving, che era un altro film insomma che aveva un buzz da Oscar, anche se poi sì, non ha ricevuto candidature, e un grandissimo attore, una prova superba. Lui ha una relazione molto importante di amicizia, di paternità, anche se non è il padre del ragazzo, del protagonista, e lo aiuta a crescere, lo aiuta, è proprio la sua guida spirituale. E poi insomma non voglio spoilerare il film, certo, però vedremo, certo, che poi c'è una relazione molto particolare anche con la famiglia del ragazzo, quindi un attore veramente straordinario. Tra l'altro si parla di una città che al cinema ci arriva pochissimo. Miami? Sì. Sì, sì, sì, infatti è stata diciamo è stata famosa, resa famosa da Al Pacino e da un certo tipo di cinema, non era mai stata rappresentata gangsteristico, diciamo, non è mai stata rappresentata con questo realismo, con questa quotidianità, con questo sguardo, sì, un po' pasoliniano, no? Sì, sì. E questa è sicuramente una novità. Senti Gabriele, dopo l'Oscar come riuscirà in sala? Allora, il film è uscito il 16 febbraio, come da te giustamente indicato, nelle principali metropoli italiane. Sì. Ha avuto un successo relativo, discreto, non eccezionale, quello che ci aspettavamo. Sappiamo che il cinema black in Italia fa un po' di fatica, questo non è un segreto, e sebbene poi gli ultimi film come 12 anni schiavo e Precious, Re della Terra Selvaggia, abbiano un pochino scalfito, no, quel tipo di costume, però ancora trova delle difficoltà, e l'Oscar lo ha trasformato nella percezione del pubblico, è diventato completamente un altro film. Sì. E già dai primi giorni successivi agli Oscar la media per copia di incasso del film si è duplicata, in alcuni casi addirittura triplicata. Sì. E per questo noi, rispetto alle 40-50 copie iniziali, questo weekend metteremo fuori 150 copie del film. Bene, allora io ti ringrazio Gabriele, ci sentiamo per le prossime novità. Ok, grazie mille a voi, buon cinema e buon ascolto ai vostri radioascoltatori. A presto, ciao Gabriele. A presto, ciao. Ciao. Gabriele D'Andrea di Lucky Red sulla distribuzione del film Moonlight, uscito in sala lo scorso 16 febbraio e vincitore dell'Oscar come miglior film. E siamo in collegamento con Luca Vullo, regista del documentario In Flux. Ci sei, Luca? Sì, ci sono. Oh, la pronuncia è giusta, In Flux? Sì, va bene. Fai conto, per la pronuncia italiana influx è meglio, viene più riconosciuto. Okay. Però bene influx. Ok, influx o influx. Allora, intanto credo che ci siano, tu sia partito con una serie di proiezioni pubbliche in Italia, giusto? Sì, a Taormina, Festival di Taormina l'anno scorso, con un po' di proiezioni su Palermo e su Catania. Okay. Ho incontrato anche alcune scuole in Sicilia e poi ho fatto un tour americano. Chiaramente sempre dopo la premiere a Londra, il giorno prima del Brexit, perché questo è fondamentale. Sì. Ho iniziato a girare un po' diverse città degli Stati Uniti, da Los Angeles a San Francisco, San Diego, Philadelphia. Ho fatto diverse presentazioni negli Stati Uniti molto interessanti. Poi ho fatto un altro mezzo tour sul Regno Unito, quindi Edimburgo, Liverpool. Adesso continuerò in Italia. Ho fatto una presentazione a Roma proprio la scorsa settimana alla 11, che è stato veramente molto importante per me, era la premiere romana, e continuerò con Bologna al Chinodromo e altre sale indipendenti in giro per l'Italia. Allora, senti, per chi ci ascolta, di che lavoro si tratta? Beh, stiamo parlando di un documentario sulla comunità italiana a Londra. Sono certo che chi ci ascolta, almeno un amico, un parente che in Regno Unito è uno dei fenomeni migratori degli ultimi anni. Senti Luca, ti sento un po' male, intermittente, dovresti trovare una posizione migliore per la ricezione. Datemi un secondo. Ok. Scusa. Quindi la comunità italiana a Londra, che è molto estesa, credo una delle più grosse comunità italiane all'estero, se non sbaglio. Esatto, si può dire che nel Regno Unito siamo la terza comunità più numerosa, dopo i polacchi e i rumeni. Mi sentite meglio adesso? Sì, sì, ora è molto meglio. Ok, e poi comunque l'immigrazione è aumentata anche in tantissimi altri paesi, non soltanto nel Regno Unito. Cioè è ritornata una forte immigrazione in America, ma anche in Australia, in Germania e in tantissime altre parti dell'Europa, per cui è solamente, come dire, la punta di un iceberg che fa capire quanto stiamo migrando, quanto stiamo andando via dal nostro paese. Quindi un fenomeno molto importante, soprattutto in un momento in cui si parla di mobilità, si parla di chiusura della mobilità e quindi delle barriere, si parla di Brexit, si parla di uscita dall'Unione Europea. Insomma, quindi è un argomento molto caldo, dove racconto una comunità che fino a poco tempo fa sceglieva Londra perché era uno dei posti più liberi per poter provare a vivere, a fare quello che si vuole con una meritocrazia diversa. Adesso le cose stanno cambiando. Tra l'altro si scopre anche attraverso il tuo documentario che degli italiani che vanno a Londra c'è anche chi finisce a fare il barbone. Beh, c'è di tutto, nel senso che non è l'Eldorado, non è il sogno. Per molti è ancora il sogno americano in Europa, però fondamentalmente è una giungla molto difficile. Vivere a Londra non è facile, la vita è molto cara, c'è una competizione altissima, bisogna comunque conoscere bene la lingua. Ci sono tanti aspetti che magari non ci si pensa, perché è vicina, perché ci sono tanti amici che sono lì e si sono sistemati, quindi si parte anche con poca preparazione. Questo secondo me è il danno principale, è il problema principale poi di chi parte all'avventura. Sì. Non possiamo permetterci nel 2017, con le tecnologie che ci sono, di partire così improvvisandoci in paesi come Londra, appunto, perché in paesi come l'Inghilterra e il Regno Unito, perché comunque sono posti dove bisogna combattere, no? Però ti dà la possibilità di, come dire, di esprimerti e di essere te stesso e di giocarti le tue carte, cosa che nel 95% dei casi, anche quello che emerge dalle interviste, in Italia è praticamente impossibile. Senti Luca, quanti sono stati i tuoi interlocutori, bene o male? Ma ho cercato di essere più variegato possibile, proprio perché raccontare gli italiani, uno, non è facile. Raccontare l'emigrazione a Londra non è facile perché è variegatissima, non è soltanto una fuga di cervelli, e questo ci tengo a dirlo. Sì. La fuga è una fuga in generale, è una fuga di famiglie, è una fuga di liberi professionisti, ma non solo, è una fuga, cioè ci sono persone di tutti i ceti sociali, di tutti i lavori, di tutte le regioni d'Italia, e quindi ho cercato di fare un patchwork più variegato possibile, per dare un'idea quantomeno completa, mi permetto di dire, anche se non lo è, perché mancherà sempre qualcuno, certo. Però l'idea era cercare di essere più completo possibile, e abbiamo fatto tantissime interviste, quindi di sicuro per me e Francesca Sofia Allegra, che è la montatrice del film, non è stato affatto semplice montare tutto il girato che abbiamo fatto. Senti, però quale... ecco, credo che... Dimmi. Vai, credo che... No, credo che comunque in qualche modo, almeno dalle reazioni del pubblico finora, siamo riusciti a rendere questo caleidoscopico quadro italiano ricco di storie completamente diverse una dall'altra, con testimonianze quindi anche che si contrappongono, si contraddicono, che è un po' anche questa bipolarità degli italiani, questo bipolarismo che credo ci appartenga proprio come cultura e come popolazione. Luca, che bilancio ne fai a partire da questa serie di interviste che hai realizzato? Beh, il bilancio purtroppo, Federico, non è positivo. Non possiamo dire che stiamo bene in Italia, purtroppo. Poi, per carità, ci sono tantissime altre persone che hanno scelto Londra per scelta, per amore, per lavoro, eccetera, eccetera, senza partire per disperazione. Però, se devo fare un discorso statistico sulla base di quello che è stata la mia ricerca, il quadro che ne viene fuori è un quadro di un paese un po' a pezzi a livello sociale. E il fatto che si parta anche all'avventura è significativo, cioè significa che comunque non stiamo bene. Significa che è un paese che sta smettendo di sognare, è l'unico modo per sognare è provare a buttarsi completamente in un altro posto e cambiare completamente vita a qualunque età, e nessuno crede che le cose possano cambiare. Questo è un altro aspetto che mi fa molto tristezza, nel senso che basta chiedere se torneranno o meno in Italia e la risposta è sempre la stessa: mi piacerebbe tantissimo tornare in Italia, ma adesso no. E rispetto a quello che trovano? Ecco, come dicevo prima, ci sono lati positivi e lati negativi. Okay. Chiaramente non è tutto oro quello che luccica, certo. Perché anche Londra non ha... offre delle cose che il nostro paese non ha, ma non ha delle cose che il nostro paese ha, chiaramente. Se vai a Londra per cercare buon cibo, buon clima, le solite cose di cui si lamentano gli italiani, è ovvio che non è il posto giusto. Io non sono andato a cercare quello, però mi ha dato la possibilità di fare delle cose con quella meritocrazia, con quella valorizzazione delle risorse. Questa è una frase che per me è fondamentale, cioè nel nostro paese si chiacchiera tanto su questo aspetto, ma mi chiedo chi veramente valorizza le risorse italiane. Scusate, è passata un'ape palermitana proprio davanti a me, di grande spessore, con una scritta: la tua invidia è la mia fortuna. Bello, questa è un bello. Po' la filosofia del nostro paese. Senti, però Luca, dire... sì. Stai finendo, vedi? No, stavo finendo per dirti, ecco, chi veramente ha deciso e fa la valorizzazione delle risorse in Italia? Spiegatemelo, presentatemelo, perché lo voglio conoscere. In altri paesi come il Regno Unito, ma anche l'America e altri stati dove vedono una persona di qualità giovane, la prima cosa che fanno è investono su quella risorsa e cercano di averla con loro per migliorare il loro lavoro. Qui purtroppo non avviene questo. Senti, in chiusura, Luca, ci lasci tutti i riferimenti per saperne di più? Assolutamente sì, sempre se non passano altre 12 api. allora, il sito del film è influxlondon.com, sì. Dove troverete chiaramente poi tutti i canali, anche social, quindi trovate Influx anche su Facebook, su Twitter e anche su Instagram. Seguiteci, perché saremo in tour in tutta Italia, in diverse delle città principali, ma anche stiamo organizzando proiezioni nelle scuole, quindi contattateci se volete fare come dire un bel dibattito con i vostri studenti, perché vi assicuro che è importante parlare di emigrazione nostra in un paese dove si parla tanto di emigrazione da altre parti del mondo, dove noi siamo gli ospitanti. Un abbraccio, Luca, a presto. Grazie a voi, abbraccio anche a voi, spero di incontrarti presto, Federico. Eh sì, dai. Ciao. Dai, alla prossima. Alla prossima. Ciao. Luca Avullo, regista del documentario Influx o Influx, e dovremmo avere un ultimo collegamento. Maurizio Di Rienzo, curatore della rassegna Ritratti alla Casa del Cinema qui a Roma da ieri 1 marzo fino al 12 aprile. Maurizio, abbiamo un pugno di minuti, ma sei con noi. Grazie, grazie molte. Sì, sintetizzerò. C'era stato un prologo il 22 febbraio, riguardava Essere Rossana Rossanda di Mara Chiaretti, e il titolo dice già tutto. E quindi quello lo abbiamo archiviato, ma non la vita di Rossana Rossanda nella sua opera, che ancora da Parigi a 92 anni, da Parigi si riverbera sui fatti italiani. Ieri, con replica domenica prossima, 5 marzo, alle 17.30, ieri abbiamo avuto ospite Luca Stel, grande attore scoperto dai pugni in tasca, attore di 100 film, di impegno politico, di vita cosmopolita, soprattutto negli ultimi decenni, ovviamente fra Roma e Parigi, nel documentario A pugni chiusi di Pierpaolo De Sanctis. Un flusso di coscienza improvvisata e nello stesso tempo autoguidata, un racconto più che del suo rapporto col cinema, del suo rapporto con la vita di Luca Stel, con i registi, sì, ma anche col suo essere attore in una maniera sensibile, forse ipersensibile, in una maniera davvero unica nello spettro del cinema degli ultimi decenni. E quindi, anche se un attore intrappolato da personaggi come quello dei pugni in tasca e di altri film, una persona che è sempre riuscita ad essere davvero molto molto molto intimo e personale nel suo lavoro. Avremo mercoledì prossimo, l'8 marzo, la possibilità di dare un documentario che ha a che fare con quella giornata, e speriamo con celebrazioni non banali. Franca, Chaos and Creation di Francesco Carrozzini, che è il figlio di Franca Sozzani, che è la donna che è morta da poco, purtroppo, ancora giovane, che ha rivoluzionato il modo di fare editoria, di lavorare nel campo della moda, portando con Vogue Italia, al di là del glamour, ma portando una carica di innovazione con le foto, le scelte anche estreme, del tutto poco ortodosse rispetto a quel tipo di riviste fino ad allora, portando un marchio sicuramente indelebile. Dopo la lavorazione la signora Franca Sozzani è deceduta, ma il film è un percorso di vitalità e anche di autocritica nel senso migliore del termine. E poi 16 marzo, con repliche sempre la domenica alle 5.30 e alle 17.30 anche la prima, che c'è di mercoledì o giovedì, 16 marzo Toni Trupia racconta in Ero Malerba tutte le contraddizioni di un territorio travagliato attraverso il riscatto intellettuale di un pluriomicida di mafia e di stitta, entrato in carcere decenni fa, che non si è mai pentito, non ha mai collaborato con la giustizia ma con se stesso, evidentemente per uscire fuori da un gorgo di animalità cui si era da solo costretto. Ancora Sicilia, con Faro di Enrico Maria Artale, che ha vinto Italiana Docca Special di Torino a novembre, che è una storia molto bella e particolare della rincorsa, si può dire, della ricerca di un ragazzo, il regista stesso, del proprio padre che da un bel po' non sente, e quindi l'incontro non programmato, ma in qualche modo da investigatore di se stesso, di Enrico Maria Artale, con il proprio padre. Quindi anche qui un confronto sicuramente davanti alla macchina da presa, secondo un concetto di realismo assolutamente naturale e pieno anche di sorprese psicologiche per le due persone in campo faccia a faccia. Chiudiamo il 12 aprile con Love is All, Pier Giorgio Welby, autoritratto di Francesco Andreotti e Lidia Giunti, un'ora su Pier Giorgio Welby con la sua voce, anche quella meccanizzata per colpa del suo male, ma anche quella attraverso, espressa da parole, lettere e anche con immagini che riguardano il Welby prima della malattia, un percorso di attaccamento alla vita e anche un percorso che spiega come, e siamo più che mai d'attualità date le notizie in questi giorni di questi suicidi assistiti in Svizzera di cittadini italiani, come ci sia assoluta dignità nella scelta di compiere un'azione così estrema nei confronti di se stessi, quando la vita vera se n'è già andata e noi siamo solo apparentemente vivi. È la storia di un uomo che si cela dietro all'icona e con narrazioni, poesie, dipinti e sperimentazioni fotografiche i registi ci restituiscono un Welby a 361 gradi di umanità. Maurizio, io ti ringrazio, un abbraccio. Ricordiamo allora la rassegna Ritratti alla Casa del Cinema qui a Roma fino al 12 aprile. Maurizio Di Rienzo ne è il curatore, un abbraccio e alla prossima. Grazie per lo spazio concessomi, un saluto a tutti, grazie Federico. Ciao, a presto, ciao. Ciao. È tutto anche per Visionari, torniamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15 in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page ci ascolta la diretta, dove il sito internet dove trovate anche la scaletta e le informazioni sulla trasmissione, sull'home page colonna centrale trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.